Capì chi ti va bene, se tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you, papà l'americano. Ich geh so der Rock, der Rock.